It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Take a look at the 5 and 10. Mercoledì 15 dicembre, bentornati e benvenuti, benvenute di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro di Radio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda un'ora al giorno, tutti i giorni, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Io sono Caterina e qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Caterina, continuiamo col calendario dell'avvento, giusto? Sì, continuiamo, dobbiamo assolutamente, ecco, tutti i giorni. Che noi lo chiamiamo così, però dobbiamo chiarire che in realtà lo chiamiamo impropriamente così, perché insomma la nostra idea è quella di aprire ogni giorno una casellina per raccontare qualcosa, per far sentire la voce di qualcuno. E infatti oggi, grazie al nostro Paolo Aleotti, che ci sta aiutando tantissimo, Paolo Aleotti sta facendo Teleradio Reporter a Bollate e c'è anche una redazione importante che si chiama Carte Bollate all'interno di quel carcere, e lui gentilmente è riuscito a registrare delle voci di alcune detenute di Bollate che salutano tutte le ragazze del femminile e tutte le donne delle altre carceri, e in un messaggio che è veramente di sorellanza e di incoraggiamento. Quindi noi le ringraziamo tutte e vi facciamo ascoltare appunto il saluto che vi mandano le ragazze del femminile di Bollate. Ciao a tutti, un salutone ed un grosso augurio di un anno sereno, felice e chi più ne ha più ne metta dal carcere di Bollate, da tutto il femminile, per tutte le detenute d'Italia. Allora, i miei sentitissimi auguri a tutti voi, compagni detenuti e detenute. E questo è il mio primo Natale in carcere, è dura, e già siamo il primo dicembre ed è solo l'inizio, però siamo tutti insieme, siamo uniti, dai, forza. Auguri a tutti. Ciao, sono Florina, è il secondo anno che passo qua in carcere a Bollate. Vi auguro a tutti quanti di tutte le carceri in Italia, di essere, specialmente le donne, di essere forti, di darsi la forza di andare avanti. E vi auguro tutto il bene del mondo e vi auguro di anno che viene di andare tutte a casa dai suoi familiari. Tanti auguri, buon Natale. Ciao a tutti, sono Francesca. E io vorrei veramente che tutti voi ci sentiate vicine, perché noi col cuore, con l'anima, col cervello, con la testa, con tutte noi stesse siamo vicino a voi tutti a condividere questo Natale, questo periodo un po' particolare, ma sentiate con il cuore e con l'anima che vi siamo vicini e che vi vogliamo bene. E dopo aver ascoltato le ragazze di Bollate, che salutiamo e ringraziamo, e vi invitiamo di nuovo sempre a scriverci anche voi i vostri auguri, sia dalle carceri dell'Emilia Romagna che dalla Casa Circondare Le Dozze, sia dalla cittadinanza, sono graditissimi questi messaggi che mandate. Andiamo subito alle notizie di oggi. Leggo appunto dalla Repubblica, a firma di Alessia Candito e Miriam Di Peri, Palermo, povertà, disagio e emarginazione, ecco la fabbrica della criminalità minorile. Ecco, diciamo che c'è una situazione molto grave in Sicilia, un po' a causa della pandemia, un po' a causa anche del disagio educativo che la nostra nazione vive, ecco, dobbiamo dire che siamo i quarti in Europa per abbandono scolastico. Ecco, minori che spacciano, rubano, si macchiano di crimini anche gravi, ma questa non è chiamata emergenza, è un problema strutturale, scrivono le giornaliste. Ci sono baby pusher allo Sperone, che è un quartiere di Palermo, Borgo Nuovo, allo Zen, episodi di violenza senza senso e senza obiettivo, piccoli rapinatori pronti a rischiare per quattro spiccioli, stalking, ragazzine pronte a vendersi, episodi di bullismo, cyber o no. E nella cronaca di Palermo non c'è giorno che non si riscontrino questi tipi di notizie. Ci si affretta a dire che sia un'emergenza, mentre appunto, come dicevo anche prima, no, è un problema strutturale, visti i dati un po' alla mano. Quindi Caterina, nonostante questo periodo di lockdown, il boom di reati continua a esserci? Ebbene sì, nel distretto del capoluogo sono 863, leggo dal report annuale dell'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni, 863 minori presi in carico dal sistema penale di settore, con 102 nuovi ingressi, che è il dato più alto in tutta la Sicilia, che ne conta 195, e che si aggiungono già ai più di 700 presenti. I procedimenti penali a carico di minori invece sono molti di più. Solo nell'ultimo anno, emerge dalla relazione del Tribunale competente, sono stati aperti più di 2.000 casi e definiti, quasi 1.800. Scusami, ma quali sono i reati più allarmanti che coinvolgano appunto i minori? Guarda, uno dei segnali più allarmanti arriva proprio dal comparto dei cosiddetti reati sessuali. Nell'ultimo anno, soltanto a Palermo, sono stati aperti 59 fascicoli per stupro con imputati, indagati e indagati 56 minori noti, 38 imputabili e 18 che non sono imputabili perché hanno meno di 14 anni. E per tutti il profilo è molto simile, basso livello di scolarizzazione, povertà relativa, uno o entrambi i genitori in condizioni di detenzioni o con pregiudizi penali, oppure genitori disoccupati o sottoccupati. E naturalmente ciò, piaga su piaga, come per dire quando piove sul bagnato, si aggiunge il fatto che, le aree di, maggiore dispersione scolastica sono terreno fertile per la criminalità organizzata. Il motivo è che, secondo la Commissione Antimafia, dove la mafia è più forte, le strutture dei poteri pubblici sono più deboli, i servizi più inefficienti e i cittadini vengono lasciati a se stessi. Eh sì, questo è un grande problema, una grande piaga, ma si è cercato di investire di più appunto in progetti scolastici, in cultura, per cercare di arginare e di contenere questo problema della dispersione scolastica e di conseguenza anche della criminalità? Guarda, almeno stando agli annunci, la Regione Sicilia negli ultimi 3 anni ha messo sul piatto più di 40 milioni di euro, e altre risorse a pioggia sono finite tra i rivoli dei microprogetti e programmi come No More NEET o Piano Estate, sforzandosi di, recuperare il rapporto col mondo della scuola che in passato era legato soltanto a carte e protocolli. Eppure i numeri del disagio giovanile, alla mano ci dicono qualcosa di molto brutto, cioè le cose non stanno andando bene. A livello regionale il tasso di dispersione scolastica nell'isola oscilla tra i 20 e i 25 punti percentuale. E negli ultimi anni il lavoro portato avanti aveva fatto scendere l'asticella, ma naturalmente ci si è messo il Covid di mezzo e naturalmente l'asticella è ritornata alla prossimità del 25%. Senti Caterina, ma gli operatori del settore che cosa propongono? Guarda, per aggredire il problema, gli esperti, come dici tu, propongono una strada sola, il tempo pieno nelle scuole, quindi occupare il tempo di questi ragazzi. Solo con i 10 milioni messi in campo nel 2021, la platea si allargherà a coinvolgere quasi 140 istituti. La Commissione regionale antimafia ha da tempo avviato un'indagine conoscitiva poi sul rapporto tra abbandono scolastico e devianza, passata attraverso audizioni degli operatori direttamente nei quartieri. E i lavori in corso e i dati sono parziali, ma la sensazione, almeno secondo il presidente della Commissione Antimafia Claudio Fava, è che manchi però un coordinamento di tutti gli attori istituzionali, dai dirigenti scolastici al comune, quindi agli assistenti sociali, la regione, il tribunale dei minori, l'azienda sanitaria provinciale. E il rischio potrebbe essere che ci si senta sempre soli e che non si possa andare a concludere i progetti avviati con anche un grande investimento di denaro. Speriamo che non sia così. E perché, citando anche Don Milani, mi viene a questo in mente in questo momento, se si perde loro, ovvero i ragazzi difficili, la scuola non è più la scuola ed è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Ma restiamo ancora in tema minori, Antonella, perché anche tu hai da dirci qualcosa, vero? Sì, infatti, ricollegandomi alla notizia che davi tu poco prima, ce n'è un'altra secondo me importante, cioè che le violenze, soprattutto durante la pandemia, sono cresciute anche tra le bambine e le adolescenti. E nel rapporto in difesa di Terre des Hommes si parla di 1260 bambine e 1117 bambini che hanno subito violenza in famiglia. In aumento anche i reati telematici, tra l'altro, tra questi la detenzione di materiale pornografico realizzato con minorenni. E la situazione è evidente che sia grave e pesante. Siamo di fronte a un dato strutturale per il nostro paese. E purtroppo, tuttavia, direi, la pandemia ha determinato un ulteriore peggioramento delle condizioni di vita delle donne italiane e dal quale ne consegue un aumento esponenziale della violenza domestica. Alcuni dati ci dovrebbero far riflettere parecchio, per esempio soprattutto sull'infanzia e l'adolescenza. A mettere in evidenza è il rapporto di cui vi dicevo, in difesa di Terre des Hommes, che segnala una crescita rispetto all'anno 2019 del 13% delle vittime minorenni del reato di maltrattamento contro familiari e conviventi, e per dirlo in altri termini, ben 1260 bambine e 1117 bambini hanno subito violenza in famiglia, e violenza che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, tra l'altro. Inoltre, complice sempre il lockdown, sono cresciuti di quasi il 14% anche i reati telematici, quelli che vi accennavo poc'anzi. Ma Antonella, quindi c'è un dato di genere in tutta questa trafila di violenze? Sono sempre coinvolte donne molto giovani o bambine, vero? Purtroppo sì, perché per tutti i reati relativi all'infanzia e all'adolescenza esiste proprio il tema del genere. L'89% delle vittime di violenza aggravata, l'88% della violenza sessuale, il 65% della pornografia è appunto su bambine e ragazze, non c'è niente da dire. Questo significa che c'è un pezzo di popolazione, appunto le bambine e le adolescenti, completamente indifesa, a cui serve protezione da tutte le parti, dalle istituzioni formali e non formali. Ed ecco perché gli adulti devono essere preparati a cogliere i segnali di richiesta d'aiuto e capaci anche di comprendere, di decodificare la complessità che li circonda. Abbiamo bisogno quindi di quello che potremmo definire un'educazione sentimentale per affrontare questi tipi di problemi. Questo è proprio vero, un'educazione sentimentale, come dici tu, sarebbe molto utile, anche se pensiamo per esempio a come gestire il nostro rapporto con il web, no? Penso a tutti i casi di cyberbullismo, eccetera. Sì. Esatto, il rapporto col web che per i nativi digitali è qualcosa che è normale ormai, no? Anche noi però che non siamo ovviamente nativi digitali, però siamo molto impreparati dal punto di vista culturale. Facciamo fatica a decodificare il segno di questo rapporto, che a volte è appunto un rapporto di dipendenza, a volte invece di consapevolezza, di emancipazione, di condizionamento. L'idea di esistere solo se si dà comunicazione della propria esistenza è un tema che dovrebbe veramente ossessionarci, ma proprio come persone, perché stiamo parlando di un fenomeno che ha a che fare con la parola e anche con i corpi, col linguaggio fotografico, con quello audiovisivo. Infatti nell'esposizione di se stesse da parte delle ragazze c'è un elemento sicuramente di libertà che invece condizionava molto la mia generazione, per esempio. Ma se loro oggi hanno la libertà di autorappresentarsi, forse corrono anche il rischio di diventare totalmente schiave di un certo mondo dell'immagine. E senza una riflessione vera, seria e compiuta non si può andare avanti, bisogna appunto approfondire questo argomento. E tra l'altro ci sono dei fenomeni inquietanti, come appunto la crescita della pornografia amatoriale in rete, il revenge porn che diventa sempre più diffuso, aumentano gli stupri filmati tra gli adolescenti, un po' quello che dicevi prima tu. Insomma, c'è un problema che ci impone un po' di rivedere alcuni modelli a partire dal racconto della violenza e dell'adolescenza nei mezzi di comunicazione e nella cultura generale. Questa è una cosa sicuramente a cui dobbiamo badare maggiormente. Ma soprattutto c'è anche una riflessione sulla scuola. Tu prima parlavi della scuola. La scuola è l'unico luogo, al di fuori della famiglia ovviamente, in cui poter fare prevenzione. C'è stata anni fa una deputata, Celeste Costantino, che depositò una proposta di legge proprio per introdurre l'educazione sentimentale nelle scuole di ogni ordine e grado. Quindi una sorta di formazione per cercare di comprendere le grida d'aiuto e attivarsi in tal senso. E in tutto ciò, proprio per rimanere sul tema dell'aiuto, continuiamo col nostro Jean Baptiste, con la canzone I Need You, Ho bisogno di te. Prima di ascoltare la seconda parte dell'intervista a Marcello Marighelli, il garante dei diritti delle persone private della libertà personale della regione Emilia-Romagna. Ascoltiamo I Need You. Rieccovi, bentornati a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Proseguiamo già da ieri con la seconda parte dedicata all'ospite, ancora con il nostro garante regionale per le persone prive della libertà personale, Marcello Marighelli. Questa volta, dopo aver toccato il tema del Covid, dell'emergenza da Covid-19 in carcere, tocchiamo un altro importante tema, che è quello del sovraffollamento carcerario, che abbiamo visto in diminuzione proprio durante la pandemia, ma che sta tornando a salire. E quindi le chiedo qual è, secondo lei, l'elemento che incide davvero così tanto sul sovraffollamento carcerario e come intervenire. Ma guarda, il tema del sovraffollamento è sempre stato affrontato solo in termini numerici. Capienza regolamentare, capienza tollerabile, capienza effettiva. In realtà la questione è molto più complessa. Anche se i numeri sono diminuiti nella fase pandemica, quindi il numero delle persone presenti negli istituti è diminuito, però l'agibilità degli spazi dentro il carcere e anche questa si è modificata, perché il carcere deve riservare diversi spazi per i cosiddetti isolamenti precauzionali, cioè per le persone che entrano in carcere, per chi deve avere una quarantena, per chi esce e poi rientra da un permesso, per cui gli spazi alla fine non sono tutti utilizzabili. Quindi in concreto il tema della carenza di spazio all'interno degli istituti è sempre presente, al di là dei numeri. Sicuramente i numeri sono in ripresa, anche perché sono aumentati gli ingressi in carcere, perché c'era stata una sorta di moratoria di diversi ingressi in carcere per i reati, diciamo così, meno importanti. Per cui abbiamo una ripresa degli ingressi in carcere. In più la nostra regione è da sempre interessata a una certa, diciamo così, forte presenza di persone nelle nostre carceri provenienti da altri territori. Per cui questo, ad esempio, è uno degli elementi che potrebbero molto migliorare la situazione del carcere, cioè il rispetto del principio di territorialità nell'esecuzione della pena. Un'altra questione che noi, diciamo anche come conferenza dei garanti, abbiamo sottoposto all'attenzione dell'amministrazione penitenziaria e anche dei referenti politici, è che comunque la capienza complessiva delle carceri nel nostro paese negli ultimi anni è aumentata moltissimo, ma mai è riuscita a tener testa ad un aumento che è quello della sanzione penale eseguita in carcere. Noi dobbiamo sempre far riferimento al fatto che l'articolo 27 della Costituzione parla al plurale di pene, quindi non è propenso a una visione carcerocentrica dell'esecuzione della pena. Quindi c'è da auspicare che sempre più si provveda ad istituire forme diverse di controllo sociale e sanzionatorie che non consentano, non prevedano in maniera così rigida l'esecuzione della pena in carcere. Faccio riferimento al lavoro di pubblica utilità, che può essere utilizzato anche come sanzione, oppure alle forme risarcitorie e di giustizia riparativa che sono già avviate, perché nel sistema carcerario minorile sono istituti ben conosciuti. Abbiamo avuto una buona esperienza iniziale anche con la messa alla prova, quindi sospensione del procedimento penale con messa alla prova delle persone che commettono reati prevalentemente sul codice della strada o reati di tipo minore, e quindi che non vedono la persona entrare in carcere, ma entrare in un percorso molto diverso, di tipo riparativo. E contiamo che di questo istituto si faccia sempre un maggiore uso. Quindi non solo la misura alternativa come forma di uscita anticipata dal carcere o diversa esecuzione della pena dal carcere, ma senza, diciamo così, ingresso in carcere direttamente applicata dal giudice della cognizione. Ecco, io so che lei in questi anni ha avuto molto a cuore anche il tema dei minori all'interno degli istituti di pena. Quando si pensa al carcere si pensa di solito a una struttura maschile per uomini, effettivamente poi i numeri parlano chiaro anche su questo. Il numero delle donne è molto inferiore, però ci sono. Cosa fare per migliorare la situazione di donne e minori all'interno degli istituti? Ma la carcerazione delle donne è un tema, io credo, fondamentale, cioè come misuratore della tutela dei diritti nel nostro paese. Veramente la donna in carcere vive una separazione all'interno di una separazione più grande che è quella del carcere, perché le sezioni femminili sono dei corpi separati. Peraltro non in tutti gli istituti dove ci sono le donne in carcere queste sezioni sono nate effettivamente con una modalità di costruzione adatta a una esigenza della donna completa, insomma, per tutta la sua vita. Cioè le sezioni femminili del carcere non hanno degli spazi verdi grandi. È difficile per una donna in carcere poter accedere a quelli che sono gli spazi prettamente utilizzati dagli uomini, come il campo di calcio o i laboratori. Anche quello che nella nostra società è assolutamente superato da sempre, cioè la distinzione tra scuola femminile e scuola maschile, nel carcere è mantenuto. Noi ci siamo come garanti, come movimento dei garanti, ma devo dire anche io in particolare ho cercato di muovermi su questo terreno, cercando un rapporto con il volontariato, con le associazioni che si occupano proprio anche specificatamente della presenza delle donne in carcere, soprattutto a Bologna, la DOZ, abbiamo una fortissima presenza dell'UDI e di altre associazioni che seguono le persone in carcere. E poi c'è il problema veramente incredibile, scandaloso. Non è un problema, è una questione sociale, di diritto, perché di problematico non ci sarebbe nulla, della presenza di donne in carcere insieme ai loro bambini. Questa è una situazione che sia io che il garante del Piemonte abbiamo rilanciato in maniera molto, molto forte, perché dal 2013 che esiste una legge promossa proprio da Eda Colombini, che era una parlamentare qui della nostra regione Emilia-Romagna, perché le donne con bambini piccoli potessero così avere l'esecuzione della loro misura cautelare o della pena presso case famiglia protette. Quindi all'interno di un circuito che già esiste peraltro nella nostra regione per l'accoglienza di madre con bambini che abbiano dei problemi di vita, di inserimento sociale. E queste case famiglie protette non si sono mai realizzate, nonostante che ci sia questa normativa. Peraltro dobbiamo denunciare ancora una volta un incredibile ritardo, perché se il problema era quello del finanziamento, ora questo problema non c'è più, perché con la legge di bilancio proprio del 2021 era stato previsto, è stato previsto, perché i fondi sono ancora lì giacenti, un finanziamento per la realizzazione di questi circuiti di accoglienza per le donne con bambini. Entro il febbraio di quest'anno avrebbero dovuto essere distribuiti i fondi alle regioni per la realizzazione di questi circuiti e ancora non si vede assolutamente nulla. Poi a livello, diciamo, generale, a livello macroscopico, è stata approvata di recente la riforma del processo penale. Io volevo chiederle come giudica finora l'operato della ministra Cartabia e tra l'altro è stata anche da poco istituita la Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario. È fiducioso? Cosa si aspetta anche lei dall'esecutivo in materia penitenziaria? Ma questa riforma, come altre riforme che abbiamo già visto, dal punto di vista della tecnica legislativa, prevede dei decreti delegati, per cui finché non avremo visto i decreti delegati non possiamo parlare effettivamente di una buona parte di questa riforma. Altri aspetti invece sono già effettivamente operativi e riguardano sicuramente una buona, diciamo così, riorganizzazione di alcuni aspetti del processo che possano ridurre i tempi. Ecco, io mi aspetterei dall'esecutivo che ci fosse veramente una capacità di tutto l'apparato dell'amministrazione penitenziaria di mettere in atto quelle che sono le linee guida del pensiero e l'indirizzo dato dalla ministra. Non riguarda solo il tema dei bambini in carcere, come dicevamo prima, ma tutto, ad esempio, la logistica e la costruzione, come sono e come funziona il carcere. Ho sottolineato nel mio intervento alla presenza della ministra come il concetto di aria aperta non sia trascorso nei cortili, ma anche gli spazi verdi dovrebbero essere maggiormente utilizzati per poter consentire alle persone di avere una vita un po' più accettabile all'interno del carcere. E anche oggi, Garante, la ringrazio, la nostra intervista finisce qui, ma ci rivediamo domani. E come non lasciarci ancora con un brano musicale, penso a De André che cantava Nella mia ora di libertà, e quindi ascoltiamolo insieme e ci rivediamo tra pochissimo per i saluti finali. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto. E anche oggi siamo giunti ai saluti di fine puntata, non prima di lanciarvi la rubrica tra pochissimo che segue al nostro Buongiorno Eduradio. Abbiamo, come ogni mercoledì, l'equipe sanitaria del carcere con la puntata sulla giornata mondiale dell'AIDS, in cui raccontiamo le iniziative svolte in carcere il 1° dicembre e anche in città, in particolare in Piazza San Francesco a Bologna, dove sono state coinvolte le voci degli operatori, delle associazioni, oltre a far vedere come si fa il test rapido capillare. E come al solito un saluto da me, che sono Caterina, da Enea Flacco, da Antonella Cortese, sempre qui con me, da Diana Bota. Scriveteci in redazione liberidentro@gmail.com. Grazie e a domani. It's beginning to look a lot like... Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Every star.